andata? Bene. Bene. Ci siamo divertiti. Siamo andati in posti molto divertenti. Abbiamo girato in tutto Draw. Abbiamo registrato tante cose belle. E abbiamo anche riso insieme. Poi non abbiamo litigato per la prima volta. Un cane quando lo cominciavo quasi per inseguire. Abbiamo fatto le cose belle, siamo andati nei posti bellissimi che non siamo andati. Non li avevi mai visti prima? No. Abbiamo preso anche scorciatoie. Siamo stati i più bravi? Non è vero. Voi ne avete fatti solo 5, noi ne abbiamo fatti... 9. E voi? Noi 6. Ma è la qualità. 6. Perciò siamo... E la qualità? Vediamo. Ma non c'entra però, non cioè importa. Dipende anche da dove sei andato. Cos'è importante per voi in questo senso? L'amicizia! È vero? Non è che cioè, è solo un gioco, non è una gara qualcosa. È importante il lavoro di gruppo. Cioè, non dire vai sbrigati, dobbiamo fare più di tutti. Ed è anche molto bello il fatto che collaboriamo tutti insieme per fare una cosa fichissima dopo, alla fine. E non è tipo io un esempio. Vieni, andiamo là. Non deve ordinare. Parla. Sì. In una parola, che scoperte sono queste? Fantastiche. Sì. Quando hai le cuffie senti più doppio. Potente. Supereroe, tipo io sento tutto. È più divertimento. È più divertente. È più divertente. Invece si potrebbe andare in giro a fare queste robe qua che rimanere davanti al telefono. Come certe persone fanno. Non faccio nomi, vero Omar? Come queste due qui. Ma noi siamo futuro della tecnologia. Però anche è stato bello, tipo, quando noi eravamo a fare un percorso, abbiamo trovato un mio amico. In una parola, l'esperienza di oggi. Fine. Simpatico. Divertente. Collaborazione. Meraviglioso. Diverso. Nome scoperte. È stato bello andare a cercare i sogni. Innovativo. Incontrare i vigili per strada. Incontrare un cane che ci aveva abbaiato. Divertente. Tecnologico. Una bella comunicazione. Viaggio. Alla ricerca dei particolari. È stato super mega fichissimo. Fine. Interessante.